Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Svelato il segreto delle lenti ottiche dell'unico animale al mondo che vede, per così dire, con lo scheletro. Lui si chiama Ophiocoma wendi ed è un organismo simile alle stelle marine, il cui mesoscheletro, che giace appena sotto la pelle, è composto di microscopiche strutture ossee a forma di lente. Nel 2001 si scoprì che ognuna di queste piccole lenti era in grado di focalizzare la luce su un nervo, permettendo all'animale non proprio di vedere ma di percepire perlomeno le luci e le ombre con il proprio scheletro, appunto. Queste microscopiche lenti sono inoltre estremamente resistenti, pur essendo fatte di materiali per così dire poveri. E oggi su Science c'è un articolo che spiega come ciò sia possibile, quali accorgimenti abbia escogitato la natura. E l'articolo vede un contributo sostanziale del gruppo di ricerca dell'Università di Trento, guidato dal professor Nicola Pugno, ordinario di scienza delle costruzioni presso l'Ateneo Trentino. Buonasera Pugno. Buonasera a voi. Dunque Pugno, un sistema, dicevamo, unico di percezione della luce, non si può propriamente parlare di visione, così come sono uniche queste microlenti che hanno delle caratteristiche assolutamente peculiari. Ma dal punto di vista, diciamo, ottico, fanno un po' la veci di quelle che che si può immaginare come un occhio diffuso, per così dire. Quello che noi abbiamo invece studiato è come mai queste lenti, che in teoria, essendo di calcite, dovrebbero essere tutto sommato abbastanza fragili, in realtà sopravvivono a quelle condizioni diciamo che si osservano in natura e che portano comunque a dedurre che in realtà queste lenti sono più tenaci di quello che si pensava. Ecco, quanto sono grandi queste lenti? Ma diciamo che sono, diciamo, multiscala, composte da diciamo delle specie di rigonfiamenti legati da elementi che fanno una specie di rete. Ognuno di questi rigonfiamenti nell'ordine di 20 micron, ecco. E poi, diciamo, si copre la superficie fino a diventare un qualche cosa di macroscopico. Cosa avete scoperto? Come fanno queste lenti a non essere fragili? Ma in sostanza quello che abbiamo osservato è che in realtà esistono, non c'è solo la calcite, ma ci sono anche delle particelle, delle nanoparticelle di magnesio che sono diffuse all'interno della matrice e in sostanza in due modi diversi contribuiscono a tenacizzare la struttura, realizzando un qualche cosa che assomiglia più alla dolomite, no? Più che alla calcite, tutto sommato, quindi un materiale che diventa effettivamente più robusto, grazie appunto, come detto, due meccanismi di tenacizzazione. Il primo importante è che queste particelle diffuse vanno a introdurre una precompressione nella, per così dire, matrice di calcite. Quindi queste nanoparticelle fanno sì che questa calcite sia precompressa e quindi tendono a tenacizzare, un po' così come si fa con il calcestruzzo, che lo si precomprime, effettivamente si chiama proprio così, calcestruzzo precompresso, certo. In maniera tale da aumentarne la resistenza. Intuitivamente uno può pensare che un calcestruzzo precompresso è più resistente, perché quando lo si tira, prima di andarlo a sollecitare veramente, certo, comunque devo togliere la precompressione e quindi diventa effettivamente più resistente. Qua non parliamo solo di resistenza, non è una questione strutturale come può essere per l'esempio che sto facendo, ma è una questione più di materiale, certo, microstrutturato se vogliamo, o nanostrutturato, ma comunque sono degli elementi, appunto queste particelle, che in maniera diffusa fanno questa precompressione nella matrice. C'è poi un'altra strategia invece, l'altra strategia, sì, che citavamo è che per motivi ancora non perfettamente chiari, ma potrebbero essere per esempio variazioni di densità di queste particelle all'interno della matrice stessa, si formano in realtà anche degli strati, e formando degli strati si ottiene un oggetto che di nuovo è più tenace nel senso che una fessura per propagare, per così dire, da un capo all'altro e spezzare la struttura, deve fare un percorso più tortuoso perché incontrerà le interfacce di questi strati, dovrà quindi anche, se la struttura è progettata bene come in questo caso, piegare all'interfaccia e fare percorsi molto lunghi e quindi sostanzialmente è come se la struttura apparisse più, diciamo, più spessa, più tenace perché comunque chiaramente l'energia necessaria per propagare una fessura è proporzionale, per così dire, alla sua lunghezza, quindi più la riesco a fare lunga e più sostanzialmente devo dissipare energia e il materiale diventa più tenace. Dunque, Pugno, qual è stata la sfida più complicata che avete dovuto affrontare per risolvere questa specie di enigma? E non è stato facile intanto perché, come detto, esistono questi due meccanismi e coesistono questi due meccanismi, quindi andarli a capire non è stato banale perché bisognava prima di tutto discriminare tra i due effetti. Siamo riusciti a fare questa cosa facendo dei modelli teorici, per così dire, di meccanica della frattura e accoppiando questi modelli teorici a delle prove sperimentali fatte in maniera tale da andare a eliminare a priori uno dei due meccanismi, in particolare con la temperatura, andando a mettere in temperatura questi provini, siamo riusciti sostanzialmente a eliminare l'effetto della precompressione, quindi isolare l'effetto della struttura multistrato, per poi andare a vedere quello che capitava nella struttura in cui abbiamo questi due meccanismi coesistenti e quindi ricavare anche singolarmente l'effetto della precompressione. Un dato interessante, uno dei motivi per cui si studiano anche questi dettagli di come in natura molti esseri viventi costruiscano, realizzino i propri materiali, è che questi lo fanno senza forni, senza presse, senza aumentare o abbassare la temperatura, si tengono quella che c'è con i materiali che si trovano a disposizione, che a volte sono appunto materiali, come in questo caso che uno mai utilizzerebbe per fare per quell'applicazione lì. Ma insomma, la natura riesce a farlo. Lo stesso trova degli escamotage, delle strategie. E anche in questo caso voi state già pensando appunto a come alcune delle cose che avete imparato da questo animale potrebbero essere trasferite in altre tecnologie. Sì, certamente questo è che abbiamo trovato un meccanismo interessante per sé, perché comunque si fa meglio capire la natura, ma certamente come ingegneri siamo anche molto interessati a andare oltre e quindi a pensare a nuove strategie bioispirate per andare a progettare dei materiali compositi con maggiore tenacità. Certamente questa strategia dà delle informazioni interessanti e suggerisce delle cose. Ecco, ma con quali materiali pensate di poter lavorare? Per che tipo di applicazioni? I materiali sono molteplici, per fare forse il primo esempio potrebbero essere materiali ceramici e quindi si potrebbe pensare di fare appunto dei materiali che in teoria sono abbastanza fragili, ad oggi sono abbastanza fragili, domani riuscire a farli più tenaci, quindi Cospargendoli si potrebbe magari di avere. qualche inclusione particolare, come nel caso quindi di questo Esatto, animaletto. non è poi facile realizzare, non sarà poi facile realizzare il tutto perché quello che capiti, come questo avvenga, no? Il risultato ci è abbastanza chiaro adesso, ma la strada Sì, il per raggiungerlo, processo il che mette in processo atto non è, questo animale. diciamo, sì, non è ancora chiarissimo, ma certamente è qualcosa che diciamo, già in parte si fa in metallurgia, di avere queste particelle che tendono sostanzialmente a dare un contributo di tenacizzazione. Però qua le cose, ci sono dettagli che ancora sfuggono e che potrebbero essere fondamentali. Pugno, veniamo a una notizia molto curiosa e interessante. Per la verità non è una notizia recente perché è di agosto, ma mi sembra una buona opportunità tornarci perché vi ha visto protagonisti. Ha visto protagonisti voi e dei ragni, per la precisione. Pugno, di cosa si tratta? Ma allora abbiamo avuto sostanzialmente l'idea di andare ad accoppiare il materiale naturale più tenace, che è la seta, con il materiale artificiale più resistente, che è il grafene e anche i nanotubi, Nanotubi e di per farlo abbiamo carbonio. nanotubi di carbonio, esatto. E per farlo abbiamo chiesto a uno specialista di fare questa cosa qua, perché anche solo mischiare due fasi diverse per realizzare un composito è una cosa estremamente complicata, di solito non viene bene. Ma i ragni riescono a produrre una seta con grandissima efficienza, ci siamo chiesti, non è che riescono anche a produrre una seta bionica, se per così dire cibati a grafene, a nanotubi? E così abbiamo provato a questa idea, che sembrava un po', strana Sì, inizialmente, perché non ha affatto detto che questo possa capitare, certo, però, invece ha poi abbiamo funzionato. misurato le proprietà meccaniche della seta e abbiamo trovato dei risultati particolari perché la seta è diventata più resistente e anche più tenace. E quanto più tenace? E adesso noi abbiamo raggiunto una tenacità che era anche 5 volte superiore a quella della seta tradizionale. Sto parlando di valori massimi che abbiamo Sì, ottenuto. sì, sì. C'è molto variabilità perché i materiali naturali tipicamente diciamo, sono anche molto variabili nelle loro proprietà. E quindi questo parametro 5 che ho citato non è estremamente significativo, ma certo che in qualche caso abbiamo visto delle cose abbastanza impressionanti. Grazie, grazie Nicola Grazie Pugno. a voi.